10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Così cosa intendi? Vabbè, sia questo clan che è un po' cupetta, però già confermi. Sì, anche io non l'avevo riconosciuto, ciao. Ma non ti avevo riconosciuto manco io, sinceramente. Cuffa, cuffa, non c'è amplificazione? No. È chiusa come radio. Guarda, adesso si è migliorato già, un pochino, se va bene. Adesso un po' di amplificazione c'è, però è sempre un po' cuffa, anche se c'è l'amplificazione. Mannaggia, ieri ho fatto un po' di prove, poi si è cambiato la prova, aspetta, io non ho fatto un po' fuori. Vediamo un attimino, ha cambiato la cosa così, 1, 2, 3, prova, anche tu lui. No, per me c'è sempre questa, almeno che tu stia parlando troppo vicino al microfono, Tino. Tieni conto che non puoi male, A prova lontanato. Guarda un po', 1, 2, 3, prova microfono. Ma sì, la faccia a mezzo dal giorno alla notte, Adesso sono a 20 cm dal mic, Provaci che va meglio, non lo so. Ah, è perfetta, come va meglio? Va benissimo adesso. Era il microfono troppo attaccato alla bocca. Vabbè, aspetta un attimo, posso abbassare l'amplificazione del microfono e magari lo... Vabbè, lasciamolo così, dai. Il microfono va bene come amplificazione, prova a dargli un po' di eco a vedere. No, questo non ce l'ha l'eco, non è l'altra radio, questa è un'altra. Ah, ecco, puoi darmi amplificazione? Sì, amplificazione sì, del mic, e poi un po' di velocità, un po' di... insomma, lo devo studiare ancora, Ah, c'è un attimo, c'è chiaro, lascialo così fuori di là, perché va benissimo. Però devi parlare a questa distanza, Ho capito, dai, circa 20 cm dalla bocca, e questa parità di voce, diciamo, dai. Com'è Luca? È già migliorato un po', però non mi piace, adesso mi tratta a sentirti con la famosa radio tua, Tino. Adesso già è chiara, Luca. L'altra, vabbè, il Kimbo. Ah, questa è una radietta così. Aspetta, guarda, Chiaramente l'amplificazione, guarda, si è aumentato, se è un po' più prepotente, non so se va bene o meno, datemi conferma. Adesso di nuovo sei cupo, deve essere o che ti ha avvicinato troppo alla bocca o che come l'hai cambiato l'amplificazione, te l'ha resa cupo. Allora dai, deve stare così, dai. Così va meglio, sì, senza ombra di dubbio. Sempre la distanza è quella lì, dai, avanti. E comunque già non è male, dai, si capisce, all'inizio non stavo riconoscendo, c'è già le forte, ma non stavo riconoscendo. Andare, segnale come ha migliorato o peggiorato? Segnale sei sul più da più 30, 9,20 dai, 9,20 pieno. E vabbè, già va bene, dai. Un attimino da lontano, poi riprendo, dai, arrivo subito. Bene, mi stai ascoltando, Tino, sì. Bene, ultimamente. No, adesso devo guardare un altro due radio, perché in una mi sta arrivando un segnale, nell'altra con la stessa frequenza invece non c'è, qualcosa è successo. Devo guardare. Via, dai, anche io mi assento 10 minuti che devo mangiare la dea. Sì, via. Ecco, buonasera. Ciao Gabbino, buonasera. Buonasera Gianni. E allora Gabbi, stamattina ho acceso a vedere se c'era qualcuno, non veda nessuno. Stamattina ho acceso presto pure io, però presto, e poi lo spendo verso le 9. Ah, no, a quell'ora ero in giro col cane io. Dopo, vabbè, mi sono pulito tutte le gabbie degli uccelli e poi ero tranquillo, dai, potevo entrare, ma non veniva nessuno. Vabbè, pazienza, faccio altre cose. E mi sono messo a cucinare. E è stato bene. Mi ha fatto bene, no, io mi sono messo a fare fuori, poi è ciccia, ne sono entrato, no, sono c'è la cosa dell'apprezzo della radio, però ero, diciamo, stavo ascoltando. E gente, ce n'è? Stasera? No, stamattina. No, accedo per fare il radioascolto e basta, da già. Ah, capito. C'era quando è? Oggi, sì, che sono entrato in un canale e mi ha risposto uno spagnolo. Sì, anch'io poco fa, quello che passava c'è lo freddo, però anch'io stavo ascoltando un pochino su. Sì, ho fatto anch'io per il manda laterale, ho fatto anch'io qualche collegamento poco fa in manda laterale con la Spagna e... Sì, dai, Spagna è un collegamento con Francia. Sicura della portante, ma non ti passa. No, scusate, stavo accordando, ciao Gabino. Ciao Tino, buonasera. Lo prendi. No, non era importante, infatti l'ho fatto per vedere se dava fastidio quando accordavo Gianni, quindi mi dai conferma che effettivamente va importante, giusto? Io? Sono stato io. E qua lo dico, qua non lo nego perché è brutto negarcene. Gabi, ha migliorato la radio da ieri, ti ricordi? Come l'abbiamo, ti stavo ascoltando poco fa quando stai facendo le regolazioni, e come va a aumentare un po', va a saturare, ti fa la radio cuffa. Adesso in questo momento qua è come l'abbiamo fatta ieri notte, più o meno, però è comprensibilissima, è 10, segnale quasi 9.40 da me, la radio adesso è bella, sì. Forse la modulazione un po' cupa, però poi magari il microfono qui. Vediamo quando, se riesco più avanti prendo quello di tavola. No, vabbè, diciamo la verità che ieri stavo parlando con il microfono molto attaccato alla bocca, adesso sono circa 20 centimetri, quindi può coincidere anche quello, poi ho rumore di fondo anche. No, adesso non sei cupo, adesso va bene. Adesso va bene, non è una radio aggressiva. La parete di radio da salotto, però è bella, per esempio a me arrivi bene, molto gradevole, non ci sono problemi, avanti. Vabbè, non è il mio genere, ti ripeto, Gianni già lo so, a me piace essere un pochino più ringhiante, vabbè, lasciamola così, dai. Questa è la radio Etti. È sempre H5005, però con un mixer collegato, varie modifiche fatte da quei pazzi di radioattori. Sì, no. Nara. Hai un mixer collegato, confermi. Che cosa? Hai un mixer collegato, confermi. Sì, già. Ok. Mai le regolazioni, hai delle regolazioni e l'equalizzatore, dai. Qua, mi ha detto non tocca niente, quindi lascio no, futtidini, abbatti questo argomento, fregatene, capito? Se mi vuole dare retta, io se c'è il mixer la radio te la miglioro, altrimenti non tocchi nulla. Però se mi vuole dare retta, poi posso dire tutto quello che vogliono, no? Non ci sono, non ho problemi a affrontare questo argomento. Allora, diciamo la verità, che non sono in vena e né voglia di poterlo fare in questo momento, perché ne sto tornando da Nuvolo, sono distrutto, sono entrato giusto a fare due saluti, capito? Io ti ringrazio per la tua disponibilità, ma sono distrutto, credi, non vedo l'ora di farmi la doccia di quelli che hanno, perché ho affrontato una giornata un po' pesante oggi, quindi non voglio mettere mani addosso nella regolazione del problema. In un altro momento magari già lo faremo, dai, molto volentieri. Tranquillo, non c'è problema. Lo prendi già. Ti faccio una massa, davvero, un attimino, posso? È certo, aspetta, prendo il telefono che ce l'ho in cucina e fai, fai pure, riprendiamo subito già un attimo. Adesso qua. Dove lo metto, non si sa. Ma mettiamolo da Eugenio, questo si sa. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Gianni, ho ben sentito, dai. KK, allora oggi, mettiamo i conti al sacco. Già, qua ti racconto. Uscito dal lavoro e sono messo a fare una targa che mi hanno chiesto. Così la consegno, ma... Ehi. Ti stai andando da fare con queste targhe oggi? Ti ripeto, devo fare una cosa... Non credo che abbia avuto questo successo. C'è un bel di propagazione, cara. Se sta arrivando un OPE ma non ti sento di radio, boh. È una cosa allucinante. Anch'io ho avuto un bel po' di propagazione qua. Stasera ho fatto un break e abbiamo risposto con lo spagnolo. È pieno. Deve essere quest'anno è favorevole per la propagazione. C'è da divertirsi. Quest'anno della propagazione. Andava bene. Che devo dire. Purtroppo quando c'è propagazione arrivano più furti loro di quelli che ci sono in città, te li mangi. Allora, Gabbino è... Sono andato al telefono, dai, Luca, invece è una cosa da mangiare a te. Ah, ok, una fine, con il filo. Qua dovremmo esserci adesso, ma non l'abbiamo messo lì stanotte. Ascolti adesso? Perché Franco, tu sei? Ehi, io. Adesso meglio, Franco, non so se... se tu mi ascolti, boh, mi ascolti bene? Sì, ti ascolto benissimo. Più veloce di... Va bene la radio di 5. C'ho un po' di QRM stasera. 9.30, sì, no, più bravo. 9.30, io non avevo un'emissione. Dare sacchi, chissà dove. sto provando quello. Quello piccolino, quello 747. Va bene. È anche buona la radio, quindi non ti posso dire niente. Ma io ragazzi vi saluto che sto andando a portare giù il cane, dai. Ci sentiamo. Ero però aspettando che entrasse qualcuno, che non entrava nessuno, allora alla fine devo portare il cane adesso, dai. Ehi, capo, dai. Va bene. Ma io ho capito perché si è baciato poco fa. Ma è un caso di tensione deve essere stato allora. Sì, quelle sono le tensioni. Quando si è abbassato così è sotto alimentato, capito? Vabbè, è collegata a 220, non è all'alimentatore, è la radio. Ho capito. Magari la corrente alla 220 si è abbassata. Quando succede così tocca a ti copere e spegnerlo. Anche se no ti fa bruciare la parete. Ma ho già, c'ho lo stabilizzatore che... che me la tiene a 220. E allora può dipendere dall'apparecchio. All'interno dell'apparecchio, se stai usando il Galaxy, c'è un trasformatore che va da 220 a 12 volts. Sì, lo so quello. Oh, probabile che sia anche quello. Stare a vedere, ma speriamo di no, perché se no poi ti tocca cambiarlo. Vabbè, ci puoi mettere anche un switch della stessa cosa. Quello non è un problema. Molta gente ci ha messo il switch e va benissimo. Lo so. Vabbè, ma adesso si buscano anche gli alimentatori sui. Il trasformatore? Via. E dove? Come dove si buscano? Il trasformatore, li vendono trasformatori. E lo prendi della stessa potenza, della stessa cosa. Anche se ce lo prendi diverso. Non è così facile, no, tra poveri. C'è gente che vi ha cercato e non li ha trovati e ci ha messo scritto. Vabbè, se non si trova, ci metto uno di quelli, già ce l'ho. Ne ho uno, ne ho due. A me lo sai come lo facevo in macchina? C'avevo un piede che era mezzo spintato nell'apparato. E si accendeva, si spegneva la luce quando modulava, si abbassava e non capivo cosa era. Poi ho controllato tutto, poi ho controllato il piede, era mollato, l'ho preso, l'ho riavvitato, ho messo le vibrazioni, l'ho riavvitato, ma non l'ha più fatto. Quelle si sono allentati, si sono, ma lo sai stasera cosa mi ha fatto? Tutto un colpo la radio si è azzittita e non volevo andare per niente, non c'era il QRM, niente. E così era un deviatore che la salvatura si è staccata da dentro. L'ho aperto, l'ho guardato, c'era la salvatura staccata. Ma di dove? Della te? No, dove attacco il cambio? Il deviatore del coso. Il deviatore di... come cavolo lo vuoi chiamare? Allora, a me una volta mi è successo che si è staccato il filo dell'antenna, stavo diventando scemo. L'attacco che c'è per attaccare dove si attacca il piede, c'è presente all'interno, c'è l'attacco, se l'ha staccato. E allora abbiamo fatto una cosa, ci ho messo l'RG58 perché quel cavo che c'era è troppo fino, cosa, l'ho saldato bene. Allora, una volta. Capo, è presente il commutatore, quello della ZG A3? Sì. Quello quadrato. Oh, io c'ho quello, perciò. Stava andando bene, sempre bene stava andando. Tutto il corpo si è azzittito la radio. Ho aperto quel commutatore e ho detto, lascia vedere cosa va dentro. Ah, ma è vero, tutti i cosi lenti, cioè staccati, lo stagno, né sceso giù, né sceso. Mi è caccato un gruppo. Oh, quelli dell'altro stagione si è virato, ce l'avevo anche io, e mi mandava tutto a fondo scala, le stazionali, non capivo cosa era, ho provato a cambiare spezzoni, questo, quell'altro, poi alla fine ho detto, beh, adesso l'attacco diretto. L'attacco diretto, le gara si dice, cosa ho fatto, le stazionali, le misurate le stazionali, 1-1, che cavolo. E allora questo qui è commutatore, ho detto, ne ho messo un altro orometro e praticamente faceva la stessa cosa. Allora ho tolto il commutatore, mi dava 1 euro di stazionale, ma te l'immagini, era nuovo, nuovo, mi ha appena comprato, io lo dovevo riportare, invece poi alla fine ho preso il GQT, era un globo e via. Ehi, cappa, no, io l'ho aperto, ho visto che lo stavo smontando veramente, che mi stavo togliendo i cosi per quelli dove avete il PL, e ho detto, ma male, mi uso quelli, mi uso per qualche cosa. Oh, come te mi raggio di raggio le viti, le due viti che c'ha, oh, ne è sceso, staccato proprio, staccato. E tu ecco cosa era, quello stagno che c'era dentro, che ne è caduto. Era quello lì, e l'hanno attaccato, tutti e tre ce ne erano attaccati, tutti e tre. Ha detto, boh, li ho presi, li ho tutti risaldati bene, li ho, e adesso sta funzionando, una meraviglia. Cappa. E controllate anche quello che non smettere a vedere non sia, che ci sia qualche falso contatto, magari anche quello. Boh, lo so quello, di sicuro. Vabbè, dato, quando cominciano la primavera, quando cominciano a fare le belle giornate, mi avvicino, prima il telefono e poi mi avvicino là e gli porto la radio, gli porto, e me la faccio tutta revisionare. Dice che c'ha una stanza tutta piena di radio da aggiustare, piena, poi non aggiusta solo radio, aggiusta stufe, televisori, tutto. Beh, vabbè, ho le mie di Aconsia. L'importante è che quando gliela porto me la faccia, poi il resto non mi interessa, quello che c'ha. Adesso, vabbè, sto dicendo che se ha le mani d'oro, aggiusta di tutto. Capo, vedi, ce l'abbiamo lontano, se l'avremmo avuto vicino era diversa la situazione. Troppo bene se c'è stato, poi vicino non ce ne sono qua che fanno questo lavoro. Capo, quello risarà, un'oretta di macchina risarà. Sì, no, forse qualcosa in più, perché Bonorva, ci vuole buon lavoro un'oretta, e dopo un bel po', dopo buon'ora. Buon'ora, mi sembra che sulla destra lo trovi. Ma invece di sì. Ebbene, Luca. Brava, io ti lascio che stavo andando, dai, ti lascio, che se no questo cane si sta lamentando, dai, ci sentiamo. Ci sentiamo. Già tu. Ma non facciamo mai più. No. Sono già le 8, non me ne ero neanche accorto. Ciao, quello che mi ha salutato. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Marco Collo. Buona serata anche a te, dai, io sto andando a portare giù a Tyson. Ciao. Ciao Franco, ciao Luca e gli ascoltoni, io ero qua che stavo facendo roba e orecchiando, dai. Ciao Marco, mi hai ascoltato. Dica, com'è qua? Io sto usando l'equivalente alle 747, il 203, se no si guasta, lascialo fermo. Funziona tutto, è saturo, va bene, va male? No, va bene, va bene. Che altri c'era? Luca, l'ho sentito un attimo e poi non ha più ripreso. Vabbè, adesso allora il TG. A proposito, allora anche del caffè. Ciao Fra, ci sentiamo. Come sono entrato, sto uscendo. Ciao Marco, ci ascoltiamo le prossime. Sì, prova. Non ho picchi negativi, no, perché stranamente qua mi disegna sull'alimentazione. Hola. No, sei a posto, sei quasi 9, Radio 5, perfetta, a picchi positivi. Ah vabbè, allora è un vezzo dell'alimentatore, dai, è una falsa indicazione. Ok, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao anche a Luca. Eco 10, 110, c'è qualcuno? Fino a un minuto fa sì, Robè. Eh beh, e tu a cosa stai uscendo? Col McKinley, President. Perché sei un pochettino troppo forte. Ah no, avevo attaccato una cosa per farla funzionare. Ciao Robè, io sto, mi sto bevendo il caffè. C'era Gianni, è andato a portare il cane, c'era Franco Di Sorso e Luca Del Monte, credo. Poi, vabbè, io sto facendo roba, quindi sentivo o non sentivo, capo? No, sei quasi 9.50, infatti, cos'è questo segnale? se devi continuare. No, l'accesore c'era da altre parti, perché oggi sono dei contest. Qualche country nuovo stavo facendo, adesso ho acceso qua. Vediamo un po', dai. Tengo acceso se entra qualcuno, se no buon divertimento a chiunque. Sì, adesso saranno andati a mangiare tutti e poi già entra qualcuno sicuramente. Ciao, vabbè, buona serata, ciao. Ciao, ciao, buon tutto. Buonasera, 27075, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno? Buonasera 27075, c'è qualcuno?